Imparo lo Zohar con Rabbi Michael Ben Pesach Portnar. Parte prima, Baderek El Asulam, sulla via per la scala, lezione numero 10. Continuiamo con lo Zohar. Lo Zohar è il corso principale. Nel primo paragrafo abbiamo imparato che le cinque foglie del giglio, i cinque gurot, 5 din sono i 5 punti di forze severe. E queste 5 foglie dure, Masak, la forza che si è alzata nel giglio per resistere alla luce imminente. Quando il giglio non è nella situazione di riflettere la luce, lei è chiamata le 5 foglie dure. Nella fase successiva lei può riflettere la luce. Riceve la luce e poi vengono chiamati 5 gvurot. Ascolta solo senza capire, non chiedere cosa e come. Questo verrà dopo. Quello è il segreto delle 5 parole tra la seconda menzione del nome Elohim, il nome del creatore con cui il mondo è creato. Nel commento scrive il nome non con una H, ma con un K, per non usare il nome del creatore invano. Anche nel suo commento puoi immaginarlo, perché solo nella Torah questo è permesso e lui non usa il nome con una H nel commento fino al terzo uso del nome Elohim. La terza volta è appena prima che ci sia luce. Tra la seconda e la terza volta lì è usato il nome Elohim. C'erano cinque parole e attraverso questo lui ci mostra la relazione con la formazione del Masak, la resistenza della Nukva. Queste sono le 5 foglie dure. Più tardi diventerà tutto chiaro perché lentamente otteniamo i Kelim, le porte sensitive per lo Zohar. Queste parole sono, librandosi sopra, la superficie delle acque. Ed egli disse: Merah Kefet significa liberandosi. Normalmente vedi il tempo presente della parola da librarsi, ma qui vedi la parola librandosi. Quello è ciò che è scritto nello stesso Zohar, perché questo è chiamato il nome del Creatore un'altra volta. Perché il nome dell'Elohim è menzionato un'altra volta? Ogni cosa che è scritta nella Torah è il nome del Creatore. Ogni parola è una specifica forza nell'universo. Come possiamo abusare di queste parole? Sembra noioso per te all'inizio, ma ogni parola è forza e ci dà la forza aggiuntiva e la correzione dei processi scritti nella Torah. La Torah non parla di moralità o altro. Quello è ciò che pensa l'essere umano comune. Sono tutti nomi del Creatore e forze dell'universo e sono strutturati in modo tale che quando una persona legge questo e sa cosa sta leggendo con l'apprendimento dello Zohar, penetrerà le forze sconosciute perché non c'è altro modo di penetrare lo spirituale che attraverso lo Zohar. Anche se non capiamo, ma quando abbiamo la completa devozione e il desiderio, riceveremo senza capire, la comprensione verrà a suo tempo. Questo significa che qui è un nuovo procedimento. Ogni volta che vediamo un nuovo nome del Creatore, si intende un nuovo procedimento. E lui disse: Lui si riferisce qui allo Zohar e presumiamo che il rabbino Kitzkiah, perché lui è stato il primo che ha aperto bocca nel primo paragrafo. Molti antecedenti incontreremo e sta a noi decifrarli. Certo che ti aiuterò, anche per me è difficile decifrare gli antecedenti. Questo lo rende così speciale. È fatto in questo modo con lo scopo perché devi pensare e sentire. Lavorandoci inizi a sentire perché quando dovrebbe essere tutto decifrato per te non riceveresti nulla. non farò una storia domabile e debole per te. L'intero significato è che fai uno sforzo e tutto qui. Questo è diverso da quello a cui siamo abituati. Siamo abituati a capire le cose e questo ci dà un impulso. Ma qui il significato è che metti la mano nella mano del superiore e vieni a tutte le apparenti confusioni che i cabalisti hanno fatto per te e con questo crescerai. È chiamato per lasciare uscire dalla nukva le cinque foglie dure. Perché viene menzionato ancora una volta il nome Elohim? Hashem nella qualità della legge severa. Sta dicendo che è fatto per far uscire dalla nukva le cinque foglie dure. Ed è per questo che il nome di Elohim è usato e non il nome di Hashem misericordioso. All'uso del nome possiamo vedere quale forza è descritta. Qui vediamo germogliare le cinque foglie dure e circondano il giglio. Il giglio è come era nell'Azilut e ora appaiono cinque foglie dure che si riferiscono alla continua costruzione del Masak in lei, la forza di ricevere la luce imminente perché senza Masak, senza lo schermo, nulla può essere ricevuto. Sono queste cinque foglie dure una preparazione per la fusione nel tempo di Gadlut. Prima una sfirà viene al giglio, sopra nell'Azilut, e nove erano sotto nella Bria. Poi vediamo un ulteriore sviluppo. È lo stesso in ogni sviluppo, anche nella nostra condizione vediamo lo stesso. Cinque foglie dure appaiono a lei, ogni cosa consiste di cinque. Duro perché è solo la forza nel potenziale, per essere in grado di resistere la luce e non per riflettere la luce. Prima devi avere la forza di resistenza, così la luce non può penetrare. Puoi vedere questo come una prefase, una persona non ha ancora la forza per resistere alla luce. La luce viene solo attraverso di lui, ma non sentirà nulla. Non c'è assolutamente nessuna coscienza per distinguere la luce. L'intera storia dell'atto di creazione, l'intera Torah, è quindi di imparare a diventare e diventare coscienti della luce. Per noi è tutta la stessa luce. Anche un bambino deve imparare a distinguere ciò che è buono e ciò che è sbagliato. Nello spirituale non è diverso. Anche qui tu devi imparare a distinguere la luce. La prima fase nel distinguere la luce è imparare come uno può rifiutare la luce, non riflettendo ma rifiutando. La forza per dire no deve crescere in te. Lascia che ti faccia un esempio. Qualcuno ha problemi di alcolismo o forse qualcuno è dipendente dal guardare tutta la notte porno. Come può una persona diventare libera da una dipendenza? Ascolta attentamente. Supponiamo che qualcuno sia dipendente dall'alcol. Non riesce a distinguere la luce all'alcol, perché quando vede l'alcol beve. Non è nello stato di godere il drink, significa di ricevere in modo kosher. E questo lo rende dipendente. E ciò è il primo inizio della correzione. In un certo modo puoi usarlo per tutto. Prima lui deve aumentare la forza per non bere un goccio di alcol, perché quando beve un bicchiere non ha alcun controllo. Quindi il primo passo è non ricevere. È a casa e vuole l'alcol, ma non è permesso. Rimane a casa per 3 mesi e ha un enorme dolore. Ha bisogno di enormi forze per non bere. In questi 3 mesi sta costruendo il Masak, le cinque foglie dure proprio come abbiamo visto alla Nukva. Questi 5 punti di forza sono la resistenza per l'alcol, il porno o qualunque cosa da cui si è dipendenti. Può essere che legge costantemente libri perché anche questo è una dipendenza, proviene dalla stessa fonte, ricorda questo. Anche un topo di biblioteca è dipendente, quindi prima di 3 mesi non beve e non va alle feste. Il passo successivo è che lui dice a se stesso che ha una certa forza e ora è in grado di andare a una festa e di bere uno o due bicchieri di vino. Ora è capace di rifiutare la luce, di rifiutare il piacere, il caffè, eccetera. Ora sta dicendo che è capace di bere solo due bicchieri di vino e di tornare a casa. Ora ha il masak. Questo è un enorme passo avanti. È lo stesso in altri casi. È più facile dire di no che ricevere un po'. Si deve costruire. Esattamente lo stesso vediamo nel testo che stiamo leggendo. Qui ci sta dicendo che è una preparazione per lo zivug, per la fusione nel momento di Gadlut. Esattamente lo stesso quando una persona è stata seduta a casa per 3 mesi e ora è nella situazione di ricevere. Questi 3 mesi sono una preparazione per Gadlut. Per il momento lui può andare a una festa e divertirsi, ora può ricevere in pieno accordo. La differenza è, ora è in piedi nel suo proprio potere e non sopra il suo proprio potere. E il fatto che questi 10 sfirot della luce riflettente siano chiamati 5 gvurot. 5 forze severe, che queste sono Chesed, Gvura, Tiferet, Kagati e Netzach Od, N-A-H. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach Od e non nel nome di Kagabe, Tu, M, come menzionato sopra. Keter, Kokma, Bina, Tiferet, Malkut. Tiferet e Zerampin, invece di Zerampin, Tiferet è usato spesso. Come menzionato sopra, l'aspetto di questo è perché attraggono solo Or Hasadim, e da questo Kagati discende al basso dalla loro posizione superiore, e ora sono chiamati Kagati e Tiferet e Malkut sono chiamati Netzach e Od. Sembra complicato, ma te lo spiegherò. Abbiamo detto che gli Sfirot sono chiamati Keter, Kokma, Binah, Zerampin e Malkut. Zerampin è spesso chiamato secondo la caratteristica principale di Zerampin, e cioè Tiferet, splendore. Perché splendore? Perché Zerampin ha in sé 2 cose, un po' di Kokma e molto di Hasadim, molta misericordia. Ecco perché è chiamato Tiferet. Zerampin ha 6 sfirot, da Chesed a E fino a Yesod, Keter, Kokma e Binah sono la testa, Rosh. La luce entra prima nella testa, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od e Yesod sono il corpo, il busto, Tok. Quindi vediamo i 6 sfirot del Zerampin sono considerati anche da sé 10 sfirot. Chesed, Gvura e Tiferet sono nel corpo come Keter, Kokma e Binah. Svolgono la funzione della testa. Chesed svolge il ruolo di Keter del corpo. Gvura svolge il ruolo di Kokma e Tiferet il ruolo di Binah. Tutto a testa, corpo e gambe. Proprio come abbiamo un corpo che consiste di testa, busto e gambe, la stessa costruzione qui nello spirituale. Netzach è Zerampin e Od è Malkut. Con Yesod è diverso, alla fine tutto viene da sopra a Yesod e Yesod dà alla Malkut. Quando parliamo di un corpo da un oggetto spirituale, nota che Chesed svolge il ruolo di Keter, eccetera, proprio come abbiamo menzionato sopra. Nel corpo, il busto, non c'è la testa, ma proprio come possiamo vedere con noi stessi, la testa ha un effetto sul corpo, nel busto. Quando senti dolore all'orecchio, lo senti nel tuo corpo. L'intero corpo è collegato, ma la fonte è nella testa. Parliamo di uno specialista ENT. Non c'è nessun capo specialista che è a riguardo per il fegato. Vedi lo stesso qui, quando parliamo del capo e la forza della testa. Ad esempio, Kokhma, che ha anche 5 in se stessa. Lei si forma se stessa, lei ha Kokhma, da sopra a Keter e Binah. Zerampin e Malkut sono incorporati in se stessa come gli altri organi. Ogni sfira ha 10 o 5, Keter ha da sé Keter e Kokhma. E Kokhma è incorporato in se stesso, ma non è la qualità di Kokhma. Attraverso l'incorporamento lui fa la sua qualità. Kokhma attrae da sopra il Keter e in lei dal basso, e dal basso lei attrae Binah, e che diventa la Binah di Kokhma perché ogni cosa è connessa con un'altra. Sappiamo già che il popolo ebraico era sparso in tutto il mondo, da un lato perché avevano peccato e dall'altro era nel piano del Creatore, perché gli ebrei hanno la qualità della testa. È la testa superiore del corpo? Una testa non può funzionare senza un corpo e senza gambe, è persona handicappata. Ogni cosa è collegata con l'altra. Ogni cosa deve consistere da 10, anche l'anima di ogni essere umano. Ma nel generale c'è qualcosa che gli ebrei dovevano essere sparsi in tutto il mondo. È una cosa divertente, gli ebrei dalla Russia si sono trasferiti in America o in Francia e non capivano perché lo facessero. E poi sono rimasti in un posto. Anch'io ho viaggiato in Europa e ho familiari in America. Resto ancora qui nei Paesi Bassi. Qual è il significato di questo? Quando un ebreo fa il suo lavoro, ascolta la sua destinazione, e ciò non significa che debba andare in Israele, solo quando è arrivato il tempo del Messia, il tempo del terzo tempio, che tutti gli ebrei verranno a Israel per servire lì, ma non è necessario prima di quel momento. Quindi, quando qualcuno va in Israele in modo artificiale, è possibile che non agisca secondo il piano del Creatore. Certo, essere un sionista è bello, ma un ebreo non è fatto per essere un sionista da anti-sionista. Un ebreo è fatto per correggere se stesso e per aiutare il mondo intero a raggiungere la realizzazione. Quando un ebreo resta nei Paesi Bassi, per esempio, e non capisce il perché, significa che l'ebreo è il capo e poi lui va in un paese dove è una nazione. Le 70 nazioni sono come se fossero disperse nel popolo di quel paese. Il Creatore lo manda in un paese che è in accordo con il suo proprio carattere, le proprie radici. Un ebreo ha ovviamente le sue proprie radici, radici ebraiche, ma deve aiutare altre persone, invisibile, per aiutare queste persone a uscire dalle klipot, le forze impure, e a tirare in alto le scintille della divinità. Un ebreo viaggia in tutto il mondo e poi rimane in un paese. Questo significa che è sua funzione rimanere in quel paese, lavorare in quel paese e non altrove. Io, per esempio, mi sento a casa, e in Russia non ho avuto quella sensazione, anche se sono nato lì, ma nello spirito appartengo qui. Quando sono arrivato ad Amsterdam mi sono sentito a casa. Riesci a immaginare come radici. Siamo sparsi per tirare su in alto la divinità di tutte le altre nazioni. E questo non è perché siamo buoni. È il compito di ogni ebreo. Un ebreo arriva in quel paese dove deve fare il suo lavoro. Arriva in quel paese perché è il capo di tutte le anime di quel particolare paese. Ed essi sono il corpo, il busto. Ed è importante che tu ricevi dal loro busto e le gambe, perché insieme diventano 10 sfirot, integrità. Mia moglie mi ha raccontato di un rabbino ortodosso che è stato portato in Israele per essere sepolto nel suo scialle di preghiera, che anch'io voglio non essere sepolto e non essere sepolto in una bara. È scritto nello Zohar che quando un ebreo non è sepolto in Israele, la sua anima deve viaggiare dal paese in cui aveva vissuto attraverso la terra per trovare la sua strada verso Israele. Ovviamente è bello e utile quando sei sepolto in Israele, poi non devi farti così tanti problemi. Ma è molto egoistico. Se sono chiamato come un ebreo per lavorare qui nei Paesi Bassi, e ho visto molti paesi e solo qui mi sento a mio agio, allora voglio essere sepolto anche qui, perché ho lavorato per questo paese. E dopo la morte di un cabalista non sta significando che le persone fanno un pellegrinaggio, ma se quello può essere un posto per pregare. Il corpo muore, ma l'anima di un ebreo che ha passato la via dell'ascesa e supplica per quel paese perché quella è la sua radice. Poi non deve voler essere seppellito in Israele perché deve fare molta strada lì. La sua strada è qui. Qui è il suo lavoro, quindi qui deve essere sepolto. E poi supplica per quella nazione perché quelli sono i tuoi 7 sfirot inferiori. Disegno 10. Nella testa c'è sempre Keter, Kokmah, Binah e la bocca, Pe. Il primo ricevente è sempre attraverso la bocca e poi al corpo. Ci stanno riceventi anche nella testa, spirituale. Tra l'altro anche dai nostri capelli siamo nutriti. Viene alla nostra fronte e poi la luce può entrare. Abbiamo 2 entrate nelle orecchie e nel naso. Zohar ci spiegherà perché alcuni organi sono accoppiati, un organo sinistro e uno destro, ma questo è per dopo. Anche nella nostra gola abbiamo 2 entrate, uno per l'aria e uno per il cibo e le bevande. Nell'organo riproduttivo dell'uomo ci sono 2 aperture, una per lo sperma, quello destro, quello buono, e l'apertura sinistra per l'urina. Sinistra è din e quando è nella parte destra è buono. Il più degli organi sono accoppiati, ma ci sono organi che sono singoli. Nel principio Nukva aveva solo una sfira, ma passo dopo passo diventa 3. La luce vuole sempre penetrare. La prima fase è costruire il Masak. La seconda fase è il riflettere. Poi verrà nel corpo. Il corpo è la luce più spessa e la reazione è la realizzazione dei cancelli, proprio come l'acqua che sale a entrambi i lati. Poi la luce può entrare, essere circondati da muri di Kelim. Zivug è l'imminente della luce, la riflessione e poi l'entrata. Questo accadrà nel luogo di Masak. In Rosh accadrà al posto di Pe, bocca. C'è il Masak. Esattamente allo stesso modo riceviamo la luce del Creatore. In questo modo possiamo lasciare entrare Hashem, non c'è altro modo. È un'azione combinata. Guarda nella Torah, cosa fa Abramo? Egli negozia con Hashem. Nella storia possiamo leggere che sapeva che Sodoma sarebbe andata distrutta, che non ci sarebbero stati Masakim e altre relazioni, non ci sarebbero stati contatti con il Creatore, e chiese: forse ci sono 50 giusti? Cosa significa 50? 50 sono i 5 Sfirot e ognuno di loro ne ha 10, insieme 50. Cosa era il significato di Abramo? Se c'è qualcuno che si è corretto da sé, così aveva 50 giusti. E non ci fu una persona tale. Poi chiese, forse 45? No. Allora forse. Alla fine disse, forse 10? E non c'era una persona con 10. E allora è inutile. Perché quando non c'è un grado che può riflettere la luce, non vale la pena agli occhi dell'Eterno. La luce che entra il Rosh è la luce Kokmah. Kokmah è una luce più sottile. Sono idee e la testa le può gestire. Ma per il corpo non è alimento, perché il corpo è rudimentale. Nel corpo, nello Zerampin, il busto, viene anche la luce Chassadim, perché c'è stato il Masak, la luce più spessa, la luce che era grossolana. La qualità principale di Zerampin è Chassadim, la misericordia, il dare, e sotto è la Malkut. C'è una fusione che trova posto in pè, nella bocca, perché c'è da costruire il masak, e lì la luce diretta si rifletterà. Nukva costruisce nel suo corpo il suo masak, le cinque foglie dure che non possono riflettere la luce imminente. Nel momento che possono riflettere sono chiamate cinque gvurot. L'intero Zohar sta parlando di questo. Quando la prima ricezione è avvenuta nella Rosh, lui va a Zerampin, la luce diretta, la luce imminente, arriva al Masak, al ricevitore. La luce Kochmah è precisamente luce, ha ogni cosa dentro ed è superiore di Chassadim, che ha solo il dare. Per quanto riguarda Kochmah, Chassadim sorge per la ricezione. Dal busto va alla Malkut e lei ha già costruito il Masak, le cinque foglie dure, puoi confrontarlo con l'uomo che è seduto a casa per 3 mesi per costruire la forza per resistere al drink. Prima accumula la forza per smettere di bere alcolici, costruisce 5 punti di forza mentre non sa cosa sta facendo, e quando sente che ha la forza a non diventare dipendente, vuol dire che ha la forza, che ha costruito i 5 sirot riguardanti l'alcol, e anche questa è una correzione. Naturalmente stiamo parlando solo di correzione spirituale. Con l'apprendimento della Kabbalah vedremo che le cose inutili ci lasceranno in pace. Ogni cosa che è troppo porta morte. Quando una persona ha il lusso deve saper come gestire. Naturalmente c'è differenza, una persona ha abbastanza in una bistecca e un'altra ha bisogno di più potere, ha uno stomaco maggiore o occhi più grandi. Ognuno deve prendere una decisione per conto proprio. È possibile essere multimilionari e non ha ancora nulla di inutile. Quando è un buon manager, non è dipendente dai soldi e può lavorare a se stesso spirituale, allora anche questo è buono. La luce di Chassadim entra nel corpo, Tok, come luce diretta e vuole entrare nella Malkut. Non ha ancora la forza di riflettere la luce. Zohar ci sta dicendo che c'è solo una sfira sopra l'acqua. Nella Torah, tra la seconda e la terza menzione di Elohim, ci sono 5 parole. La Torah ci sta dicendo che secondo i punti di forza, quell'unica sfira di Nukva c'erano accumulati punti di forza, le 5 foglie dure. Questi sono punti di forza per rifiutare la luce. I mondi spirituali sono composti diversamente da noi. Vogliamo dire, non importa, ma nello spirituale questo è impossibile. Il creatore ci ha reso impossibile ricevere egoistico. Il sistema è creato in un modo che non si può ricevere egoistico. Non c'è ricezione oltre i poteri che hai. Quando riceviamo egoistico sentiamo la morte, la sensazione di una sbornia. Tutte le leggi nella Torah, le proibitive, ci perseverano a ricevere egoistico durante questi 6.000 anni. Non c'è ricezione egoistica nello spirituale. L'intera scala spirituale di Yaakov è costruita in questo modo, l'albero della vita. Quando ti reggi a questo albero otterrai la vita. Quando ti reggi all'albero di vita vedrai nei punti di forza che non può esserci una ricezione egoistica. C'è solo ricezione altruistica e da questa ricezione non ricevi postumi di una sbornia. È lo stesso a Nukva. Prima pare Keter e lo Zohar ci sta dicendo tra la seconda e la terza menzione del nome Elohim, i nomi severi perché qui si accumulano i punti di forza severi. Vedremo quale nome fu usato alla distruzione di Sodoma e al diluvio di Noach. In Keter vediamo le 5 foglie dure, Masak, perché non ha la forza di riflettere la luce. Nel terzo paragrafo Sulam ci dice «Il fatto che lei è chiamata Ka-Ga-Ti e Na-Ak e non KKB. Cosa ci vuole dire? La luce non viene dalla bocca, pe, la testa, ma da Kassadin, da Zerampin. Zerampin è il busto e ci sono i cinque Kassadin. KGATI e sono d'accordo con KGB. Netzach nel busto, d'accordo con Zerampin, e Hod con Malkut. Ogni parzuf, ogni unità spirituale, ha cinque sfirot. Lo vediamo anche nel busto, in Zerampin sono anche cinque sfirot, ma non si chiamano KGB e ZON, ma cinque Kassadim. ZON, ma cinque Kassadim. È semplice, ma ci sono voluti diversi anni per me capire. Non c'è nessun cabalista in tutto il mondo che possa spiegarlo. Abbiamo bisogno di così tante parole. Zohar non lo spiega chiaramente. La questione è che devi chiedere, desiderare, dall'interno ci deve essere un pianto per la comprensione. Non cercare di capire con la testa, la comprensione deve venire dall'interno. La maggior parte dei rabbini hanno tutta la loro conoscenza in testa, enorme conoscenza, ma lo Zohar non sta parlando a loro ma a me. In Zerampin sono cinque Kassadim e il Kokma non è lì perché Zerampin non ha bisogno del Kokma. Kokma venne alla bocca, pe, e fu riflesso dal Masak. E questa forza riflessa è chiamata Din, luce di Din, Or Koser, perché proviene dalla creazione, dal lato sotto. Ogni cosa che è sotto, riguardo al superiore, deve essere visto come la creazione e la luce. Ciò che è sotto, il Masak non vuole ricevere, si rende ricettivo, e poi Or Kokma entra in Or Kassadim, e insieme diventano cinque Kassadim. In Rosh è solo Kokma, singolare, ma nel busto, Zerampin, ce ne sono cinque, e ora sono chiamati Kassadim. Questi punti di forza sono cinque Kassadim. Ora sappiamo che la prossima luce a Nukva sono i cinque Kassadim. Kagati, Na, H. Anche Yesod appartiene a Zerampin, ma è come se fosse un punto di raccolta. Tutti i punti di forza sono raccolti nel Yesod e Yesod li dà alla Malkut. In un certo modo Yesod è il marito di Malkut. Prima il giglio aveva una sfirà, Keter, e poi c'è un rigonfiamento, la costruzione della forza di resistenza, Din, e questa si chiama le cinque foglie dure. Quando tutto è accumulato, lei ha la forza di riflettere, e non solo la resistenza che si chiama e che si chiama cinque Gvurot. L'aspetto femminile è Gvurot, e l'aspetto maschile è Kassadim. La qualità di Nukva è quindi Gvurot. Zerampin non ha bisogno di questo, ha solo i punti di forza di Kassadim, misericordia. Guarda un uomo quando non vuole alcuna responsabilità. Se ne va seduto mezzo nudo nella posizione del loto al Gange o al Nilo o al Tigri. Non ha bisogno di una donna o di nessuno, ma un uomo è creato proprio come Zerampin, per dare alla Nukva, perché la Nukva non ha nulla di suo, e lei deve ricevere dal Zerampin. La sua forza è Gvurot, e il creatore voleva che ci fossero questi due punti di forza. Come possono i Gvurot venire a lei se non sono nel germe in Zerampin? Certamente puoi trovarli anche in lui. I cinque Kassadim sono in lui e quando la Nukva fa una sua reazione alta e dice «Voglio avere quel panno», lui inizia a lavorare nella notte e dà a lei il panno. Lui per se stesso non ne ha bisogno. È lo stesso nel mondo spirituale. Dal momento che la Nukva ha la forza di reagire, lo Zerampin si sveglia. È attraverso le Gvurot in lei che lei fa i cancelli, e lì entra la luce di Kassadim, dal suo lato sinistro interiormente. Il lato sinistro di Chassadim è come le Gvurot e vengono qui per renderla più forte. Per lei è Chassadim, ma per Zerampin è Gvurot, perché Zerampin ha al suo lato destro Chassadim e al lato sinistro Gvurot, per quanto riguarda se stesso. Per quanto riguarda la Nukva, è Chassadim, perché i suoi Gvurot sono della qualità di Chassadim. Nota che un uomo ha anche l'aspetto maschile e femminile in se stesso. L'aspetto femminile dell'uomo è per la donna un aspetto maschile. Per lui è femminile, Gvurot, e questo lui dà a lei. Lei, attraverso i cinque Gvurot, fa cinque cancelli, in cui i suoi Gvurot possono entrare. Questi sono i cinque cancelli prima del paradiso. È scritto nel Salmo: apri i tuoi cancelli e lascia entrare Hashem. Quella è la forza di Zerampin che entra nella Malkut. E noi siamo sotto la Malkut, e quando facciamo la stessa azione come Malkut, apriremo con le nostre preghiere i cancelli. Una persona scende alla Malkut. Siamo noi che solleviamo la Malkut e lei sale a Zerampin, e Zerampin va alla Binah e poi a Kokma, per arrivare infine a Ein Sof. La luce proviene da Ein Sof e scende per le vie di tutti i mondi, e ogni collegamento nella creazione sarà riempito. E la persona che sta imparando alle tre di notte riempirà tutto. La Kabbalah come regola è imparata di notte. Be'chatzot Laila, mezzanotte universale, per accelerare al massimo la velocità della nostra correzione. Quando cala la notte, cade anche il crepuscolo, e poi le regole di Din. Di giorno governa il Chassadim, l'amore, la misericordia, ogni giorno, come tutto è creato in questo modo. E a mezzanotte dell'universo, che è per lo più intorno alle tre del mattino, l'ora quando il giorno è stimolato, i poteri del lato sinistro sono stimolati, din, il rigore della legge. E se un essere umano dorme in quell'orario, allora spreca una bella possibilità nella sua vita, mentre la sua carne prende sopravvento su di lui. Pertanto ci sentiamo come un pezzo di carne al mattino e abbiamo bisogno di caffè per svegliarci. Mentre l'intenzione del piano creativo è che l'essere umano si alza alle tre e porta man sopra, preghiera, studio. Non sappiamo cosa sia una preghiera, ma lo studio della Kabbalah è una preghiera, lo studio dello spirituale. Come sappiamo cosa dire? Dammi come un bambino, ma lo studio della Kabbalah è man, la Torah, è la linea di mezzo, e quando impariamo di notte, lasciamo che la linea di mezzo vada sopra, e in Binah, il lato sinistro che è Gvurah, è ammorbidito, addolcito. Ci assicuriamo che la linea di mezzo sia creata anche nelle sfere superiori, così che la linea destra e la linea sinistra non combattano tra loro e non siano due antipodi, ma ci assicuriamo che la linea di mezzo sia creata sopra e poi ritorni a noi. Allora noi saremo i primi a ricevere la benedizione. In questo modo possiamo fare molte correzioni ogni notte. Ovviamente all'inizio è difficile alzarsi alle tre. Chi penserà che questo valga la pena? Forse se ti senti meglio, ma dobbiamo ancora sacrificare qui. Ho sempre detto che la Kabbalah è individuale e che non interferisco nelle tue correzioni personali, ma ovviamente sono in qualche modo coinvolto con ognuno di voi. Ma durante lo Shabbat precedente mia moglie aveva acceso le candele ed ero occupato, nuovo computer e così via, e quando tornai a me stesso. E se conoscete come lo sperimento, allora voi. Perché ogni essere umano lo sperimenta nello stesso modo, naturalmente un po' diverso. Perché la tua anima è diversa, ma il principio è lo stesso. Improvvisamente ricevetti luce, una frazione di secondo, e mi fu data un'immagine di quello che dovevo fare. Ho avuto una debole protesta, ma sapevo che era inutile protestare. Il piano non è mio. Ho imparato Zohar Ari. Ho bisogno di fare di più. Riguardava lo studio notturno. Per imparare ogni notte Kabbalah dalle 3 alle 5:30. Ho protestato un po' e poi ho detto, e se non ci fossero candidati? E la risposta mi è stata data chiaramente in potere, allora sei libero da questo incarico. Questo mi è stato dato per proporlo a te. Sarebbe buono se una o due persone potessero venire di notte per lo studio e altri potessero ascoltare le lezioni a casa, preferibilmente anche alle 3 del mattino, e ogni notte tranne da venerdì a sabato. Poi devo dare attenzione a mia moglie. Questa è la legge. Ho calcolato che ciò che facciamo in un anno con una lezione alla settimana lo faremo in un mese e mezzo. E tra un anno faremo tanto quanto in 8 anni, e questo è solo calcolato matematicamente. Dal punto di vista spirituale è molto di più. Ogni cosa deve essere come questo, il miglior modo possibile di bruciare. Non possiamo sopportare di studiare Zohar più di una volta alla settimana. Con Zohar do spiegazioni sufficienti sul lavoro spirituale ed è sufficiente per l'essere umano, è il minimo assoluto. Ma forse ci sono altre persone che vogliono andare più veloci. Queste persone devono avere anche una possibilità. Se ci sono persone che studiano la notte, poi il loro potere viene aggiunto a quelli che non lo fanno. Tutti noi otteniamo qualcosa da esso. Così non è una competizione che le persone che studiano di notte sappiano di più di quelle che non lo fanno. Ma c'è una seconda condizione che devo dirti. Esiste una legge. Abbiamo visto che i 9 Sfirot possono ricevere la luce, ma non Malkut. Un decimo doveva essere dato via al divino. E questo è un decimo di ciò che la Torah parla. Quello che facciamo una volta alla settimana è un corso, ma quando si viene al vero studio, in cui impareremo grandi cose e progrediremo molto velocemente, con molta dedizione, allora è necessario. Quindi un decimo del tuo reddito. Se non sei disposto a farlo, allora no. Naturalmente non è l'intenzione che da questo tu mangerai di meno. Non è tutto semplice. Come può qualcuno progredire senza voler dare sempre di più? Un cabalista che impara di più deve dare di più. Un decimo è ovviamente solo uno sforzo, dare ciò che sei capace di dare. Nella prima parte dello studio notturno impareremo Shlavei Asulam di Ashlag, 5 libri, una sorta di commentario sull'intero Zohar, sulla Torah. È un po' nello stile della guida per lo sviluppo spirituale, ma costruito per il lavoro spirituale. Esso mostra lo Zohar da un lato più leggero. Nella seconda parte studieremo i 2 libri di Ari, 600 pagine, Etz Chaim. Ci sono solo pochi nel mondo che hanno accesso ad esso. Ho una speciale affinità con esso come Ari, è il mio insegnante. L'ebraico è così semplice, così alto e così brillante, perché lo spirituale è semplice, così anche la lingua è semplice. Ovviamente ogni cosa ruota attorno allo Zohar. Se non studi di notte e dormi fino alle 7, allora perdi la tua vita. È incredibile quando studi alle 3. All'inizio pensi, cosa ottengo in me stesso? Ma se vedi cosa puoi raggiungere in un mese, è inoltre un momento favorevole, come i cancelli sono in quel momento aperti da sopra. Io non ho parole per ora, ma Zohar ci dirà tutto questo. Lo studio notturno è ovviamente privo di obblighi. Devi essere fisicamente e finanziariamente capace ed entrambi suscitano un'enorme resistenza dentro di noi. Il nostro corpo resisterà ad alzarsi in piedi di notte e la tua mente chiederà perché stai dando via i soldi. Questo è ciò che riguarda lo studio notturno. Ho dovuto trasmetterlo. Se non ci sono candidati, poi tornerò a dormire.